due volte si è falato, non lo sento più, la preparazione si deve essere falata dal fumo. Sì, dai, sono con l'altro io, vai. Ora, ora. Prova con l'altro, prova, almeno lo esci con più water. No. Per i pronti funzioni poi, o vatter o meno vatter, basta che fuzzi. Già non credo già. C'è al massimo, com'è al massima potenza? E dove vuoi andare? Più di 30 non va questo lì. Ah, sono spento io il mio. K 3930. Già va bene, dai. Dai che adesso passa all'altro, e vai proprio al massimo, al massimo. Ia, attacca l'altro, attacca l'altro. Certo che quando premi qua ti sente tutta l'Italia. Sì, ce lo so, nei canali altri è pieno di cose, di tedeschi. Gappa, gappa. Ah, ti avevo l'epoca importante. Ok, dai, dai che cambio di noi, no più. Ciucca, ciucca, ciucca, ciucca, ciucca, ciucca, ciucca. Ola, ola, ola, ola. Ciucca, ciucca, ciucca, ciucca, ciucca. Ma dov'è? Dimmi tutto. Ecco qua, dai. Un poco più pesata la goccia, già va bene. E a voglia. Con quella là potessi fare anche una cosa, metterla a 4 watt e... massimo, massimo, e attaccare il giggetto. Ma andiamo bene così. Io facevo così, facevo un periodo. Attaccavo il coso, si appanta e dopo si appanta attaccavo il lineare. Ma lo dovevi vedere, cazzo. Un bestione diventava, cazzo. Non c'era per nessuno. Cappa, già... Comunque va bene anche questo, va. Sì, sì, me lo ricordo. Cioè, me lo ricordo, me lo lamento, però... No, non mi attacco nullino. E vabbè, se non c'è più gusto. Una volta già c'era il gusto di usare quella, tutta quella armamentario. Tutta la potenza. Allora. Cappa. Io sono un po' vicciardo, ma quando vai, vai lì, apriti, senta dappertutto. Quello sì. Ah, già mi sento lì, in qualsiasi posto, a me non è quello il problema, grazie a Dio. Già esco. Già mi sento. Gappa, gappa. Avanti, becco, chi è? È sparito. Io non ce la fanno. Gappa. Subito mi buscano di quelle pennette che fanno la vicevettoria. Agganciato al computer, appena è aggiornato, così mi fa la ricevettore, mi fa. Ma cos'è? C'è attacca l'antenna? Eia, c'è la attacca per l'antenna esterna, c'è. Capito? Fa un bel po' di frequenze, fa AM, FM, USB, LSB, CV doppio e... eccetera, eccetera. Cappa, no, già... è bello, mi stavano parlando di questa roba qua. Ho visto su AliExpress, l'ho visto con questa pennetta. Quindi se c'era AliExpress c'erano anche i cinesi a Sassari. Adesso uno di questi giorni vi faccio un giro insieme a Pietro, se mi accompagna. Siccome lui sta cercando uno di quei binocoli che... con la visione notturna che gli serve per lavorare a lui, perché lui fa il vigile notturno, capito? E io invece mi cerco la pennetta, si è scatto a ciappalla. Come si chiama? Chi? Il vigile notturno? No, la pennetta. Che è bianca, comunque, di colore bianco. Perché c'è scritto ricevitore e poi non mi ricordo cosa. Su AliExpress l'ho visto. via che va in queste vie e controlli, ci sono quelle quei ricevitori, ci sono, sono in offerta. Cazzo, c'era un baracchino, va baracchino, cazzo, l'apparecchio tipo che vuole rimane bello, cazzo, 5.200 euro costa, cazzo, quanto la macchina, cazzo. Costa, avessi vinto quei due gatti e vincere quello là, cazzo, me lo sarei preso subito, cazzo. E quello fa un bel di bande, lo so, e avrei fortuna, come quello là, cazzo, che ha fatto due gatti e vince, cazzo, tutti e due, uno da un milione e l'altro da due, cazzo, l'altra di canna, cazzo. Memo gli è sceso un ragno quando ha grattato. Vuol dire che la fortuna era su di lui, era. Voglio dividirlo, qualcun altro. Vabbè, è meglio che si sia incacciato dietro. Ognuno la fortuna. Non si fa del genere, me l'ho già ritirato da travaglio burro. Vabbè. Se già avessi comprato l'appartamento e ti saresti ritirato dal lavoro. Anzi, neanche. Io non mi sarei neanche ritirato, la verità. Avrei continuato a lavorare però come socio. Avresti messo una parte tu e avresti fatto lavorare agli altri, avete solo incassato. No, giugare, rompimi la balla con le bombole, vai. No. Assolutamente. Ci sono altri lavori dove si incassa di più soldi. Ah beh, quello sì. A voglia. A meno che non vai a Las Vegas a giocarti qualche cosa lì, se sei fortunato. Non mi interessa, non mi interessa proprio. Cazzo di là si vado in chimica, c'è poca gente che vende oro di tutto, fucili, tanto per avere i soldi, cazzo, per andare al grosso. A giocare, alla roulette, e alla tutto machine. Antonio, la mia sveglia ci sarebbe stata, cioè, di stare bene, tranquillo e di farci di là. No, non mi interessa buttarci soldi su queste cose. Vabbè, quello è vero. Al limite, li investi. E si vedrà se esce qualche cosa di buono. Allora che fate di nada, ma vabbè, per sta mezza, di Covid, tutte altre cazzate. Raga, fatemi di là, i locali notturni fatemi di là. Più sono belli, più soldi entrano. Quando finisce il coso, sì. Tu vedrai che tutti i locali notturni si riempiranno attorno. Capito? Apriranno nuovo, ci metteranno quelle ragazze lì a battere. E vedrai, soldi. Cocco. Ma fai un cazzo a me di metterci di un locale notturni, non night, no. Locali dove si balla, cioè la gente ha quella tendenza, che sta ancora non ho compreso. Sono riuscito a capirlo io, ma cioè, in pochi sono riuscito a capirlo cos'era la tendenza che andava più di tutti, sono i locali notturni la notte. Più ci sono personaggi di un certo livello, più la gente si butta. E quello già è vero. Se dovessimo riaprire, speriamo bene. Adesso passiamo la zona arancione, dopo la zona arancione speriamo bene di essere gialli e poi bianchi. E speriamo di non fare lo sbaglio che abbiamo fatto l'altra volta, siamo rimasti 3 mesi di cazzo rossi. Tutti quanti arancioni, eccetera, eccetera, noi eravamo gli unici bianchi. Questa è politica, è pura, Antonio, lascia perdere. Ehi, vabbè, siamo a Bologna, cazzo. La gente ormai è città di capo, basta che c'abbia il via, in zona che può andare da qualsiasi parte, e tutti i locali si riempiono, bar, tutti, con gli assembramenti, cosa ne frega mai ieri? Perché ha vinto l'Inter, cazzo, più di 30.000 persone c'era. Io lo so già, ma qui nel tuo cazzo di epidemia se ne deve pure andare, non può rimanere a vita. I contagi e togli, contagi e togli, deve andarsene via così. Speriamo che bastino questi due vaccini che ci fanno, che non ce ne vogliano altri. Perché adesso ci sono le varianti, capito? Quindi il problema è quello. Uiuia. Speriamo che vada via questa cosa qui, come è arrivata che se ne va di quest'estate. In capo vedrà la variante, Eddie. È la pigliando di Barunguro. Vabbè, noi già ci pigliamo la variante per il pisello, cazzo. Capito? Che si allunga di 20 centimetri. Poi facciamo la puntura e ciao, rimaniamo sempre dritti. C'è cosa. La variante brasiliana ti pulimmo a stare sempre dritti, andiamo lì. Rimanerà bene anche ui. Cazzo, sto scendo di gabbo, cazzo, sto venendo a casa io, sto incazzato senza niente, però guarda che di potermi spostare in modo di farmi un bel po' di passeggiate a piedi, novità, salgo e scendo a piedi tutti i giorni, a dover usare il tappeto là. Lo so già, ma guarda che puoi uscire meno, non succede niente. Ehi, vabbè, adesso, vabbè, già ti puoi spostare, ma è sempre un casino perché ti fermano i vigili, dice dove sta andando, l'unica cosa che posso dire, sto andando a Mercatarigosa a farmi la spesa, poi me ne salgo a casa, l'unica cosa che posso fare. Ma cosa? Non chiedo manco più niente, mai torni tranquillo, nessuno ti rompe le palle. Io l'altro giorno ero qua sotto facendo posto di blocco, immaginati che ogni tanto i veri in moto, in macchina, si fermano, fanno posti di blocco, anche qui a Milano. Io anche non li vengo. Quando sono andato di freddo, ma domani non c'era manco un posto di blocco, ma se no dovevo fare presentare la giustificazione per dire dove mi stavo leccando. Meno male c'era, mi è andata bene, mi è andata. Non c'era niente, né l'andata, né, ma neanche al ritorno, meno male. Ma la rottura di balle adesso quanto è? Adesso mi sono rottura di balle. Purtroppo ci abbiamo a tenere questa storia qua. Il governo ce l'ha messa. Poi ho capito il coprifuoco, cosa lo facciamo? Uiuia. Poi hai l'insegnamento a casa, manco fossimo dei bambini in casa. All'insegnamento mi raccomando, quando comincia a fare buio, ho detto mamma di entrare a casa, poi si faceva una volta. Ah, ma che me escono la culo, me ne escono, per carità. Speriamo bene che toccano tutto in fretta. C'è morto, non è mancando mai, grazie, speriamo che si sblocchi tutto. Io voglio riprendermi la vita che avevo prima, mi hanno rotto i coglioni in questa storia. Purtroppo siamo così, non ci possiamo fare niente per il momento. Anche io non vedo ripigliarmi la vita di prima, mi sembra che sto diventando esaurito. Capito? La gente guarda, sta diventando depressa e ansiosa per questa storia qua. Pur specialmente che c'è locali, capito, negozi di abbigliamento e roba del genere che non riesce a chiudi, hanno già le balle piene, hanno perso un sacco di soldi, devono pagare affitto, devono pagare personale, e purtroppo è così. Se non finisce fatta questa cosa qui, per di uno va lì a Ponte d'Orsello, si lampami. Va bene. Ma qui sono qui su Guglione di Fedex, che ha il concetto del primo maggio, invece fa bidà di lavoratori, fa bidà gatto di cose che non gli interessano. Ehi, Ferea. È tutto per i fatti suoi. Io non so che non posso... Ma, già chi ha i soldi già. Capito? La voglia di soldi per figlia fatte quando vuole, se ne va in, alle Canarie, si fa... si diverte. E se ne fate le balle, se ne fotte. Allora, ragazzi, giungetevi mai, boh. Adesso i cantanti sono diventati grazie, pensa alla politica, lascia stare, vai a cantare, perché la politica ti può anche uccidere me, come personaggio, ti può eliminare me, perché non è che sei tutti uguali, no? Se non travagli più me, devi stare zitto, devi andare a farti le tue canzoni e far divertire la gente, e vai grazie due devi va. Perché queste, ci sono certe cose che toccano, rompono le balle. Ah, quello sì, adesso sarà per fede un casino di Aradai, non lo chiameranno più, neanche cantare, capito? Se va mi va a calare 5 o e se gli va tutto bene, se apro farà qualche serata lì, sì, capito? In qualche stadio, altro non può fare. Il discorso è quello lì. Anche loro sono messi male me. Uno senza fare spettacoli è brutto, senza cazzare soldi. La Beglia ci pensa la CIA a pagarli a loro ogni anno, perché hanno i diritti d'autore, però non è che questo granché. Io ho visto più di uno di andando da una cosa. La Barbara Russo raccontando che senza soldi eccetera eccetera che non riesce a vivere abituati come andavamo prima che si andava al ristorante a spagassarsi di là una volta prima si sente al lavoro ciao e buonanotte li ho visti tutti messi male proprio lo spiga a comprarci la roba come facciamo noi non sono quelli come si chiama i cookie cazzo. Anzi, con chi il chef, che quelli che adesso lavorano in TV, che hanno chi 30 ristoranti, che ne ha 20, che ne ha 10, adesso sì che mette la merda. Uiaia. Già lo so, già lo so. Che cosa si innamora, come ti dice? A lavorare. Cioè, se uno non può comprare in un posto chic e compra un posto meno chic, però mangia lo stesso. Ah, quello sì. Ma con queste aperture e chiusure dei ristoranti adesso tutti messi male, non è adesso stanno facendo pubblicità e basta. I chef che... Ui, anche loro hanno abbassato la cresta. E a chi? Solo devono stare a ehi, anche loro devono imparare a arrangiarsi adesso. Ui. Ma purtroppo i problemi arrivano per tutti. Arrivano. Ed è così. Sì, quello... è più che logico, i problemi adesso arrivano a tutti, quante c'è gente che senza fare niente, non può neanche andare nelle piazze così a vendere la roba, no? Tutto fermo, se non sbloccano niente, quest'anno siamo fregati, davvero, siamo messi male, anche col turismo. Io e altre isola Covid free 20 anni, mi pare che ci andiamo alle Canarie, ce ne andiamo e facciamo prima a vivere. Ma poi vorrà che fra un po' si sblocca tutto, che devono venire i turisti, avrà vedi che non ti sono potuto in Dio, aspettiamo fra qualche settimana, a vedere tu cosa succede. Adesso che arrivano i turisti sì, diventiamo come prima, capito? Aprono le discoteche, quindi si radunano, si ubriacano, cose del genere, tutti positivi. Poi basta che hai visto gli indiani, quando quelli che sono arrivati, hanno pagato 20 euro in India per farsi fare il falso tampone. Una volta che sono arrivati qui, che gli hanno fatto il tampone, tutti positivi erano, chissà perché. A posto di mandarli indietro, ci hanno messo dentro lo step a spese nostre. Quella parte migrante che stavano arrivando via, non sapevamo neanche più dove metterci di quelli. Mare di cuore, a mangiare i becci. Alla Sinara l'avrei messa, guarda, l'avrei messa via alla Sinara. Tanto lì la Sinara è libera, ha voglia a posto, non posso manco fuggire. L'avrei messa tutte lì, arrangiatevi, fate quello che volete. Una volta, lo sai, la Sinara, tanto tempo fa, mettevano quelli tutti infestati con la peste, no? Li avevano messi tutti lì. La Sinara pure è incarcerato, puro. E ha fatto i carcerati, avanti, chi è avanti, che beh, l'amico che vuole entrare. Ah, sei basso di radio, sì. Cosa vuol dire io? Ciao Tony, come sei in modulazione bassa? E di solito usci più forte del radio. Avanti Anto, lo senti a Tonino? Lo sento già, buonasera. Avanti? Un poco bruciante. Adesso va bene. 7-8, risegnare radio 5. Allora, già lo sta fischiando dove sei tu? Torino. Forse c'è un altro acceso, forse. Un altro apparecchio acceso, forse. Hai preso il mobile e sistemi tutto? Ho detto appena fornito, ho già tutto il materiale, tutto l'altro mobile e sistema tutta la persona. Ah beh, meglio così. Vabbè, non sei più tranquilla, però stai un pochino meglio, te l'ho stato lì. Tanto mai sei in ferie, quindi almeno ti diverti, ti prendi tutto, ti armi di martello, chiodi, eccetera, eccetera, di questi scini. Un bel mobile e ci metti gli apparati tutti messi in fila, ben fatti, eccetera, eccetera. Ma non è un gran segnale. Ehi, ha già capito tu. Mi riportate a farlo poi, una volta che... Vabbè, a me mi viene male. Qua, il mobile ce l'ho, però è tutto incasinato di notte. Adesso mi faccio un po' di spazio uno di questi giorni, tanto non sto facendo un cazzo. Prima di tutto mi pulisco bene tutta la camera, la faccio, passo l'aspirapolvere, poi ci butto quello che c'ho da buttare e tolgo i mobili che ci sono in più, che non me ne faccio niente, e ci scendo in garage. E così mi sistemo bene la cameretta, mi sembra un troiaio questa camera, adesso così com'è. Ehi capo, piano piano, vai, piano piano, ci vuole pazienza. E Ginko Tony, che fine ha fatto l'oraggio ben teso? Beh, se si mette a sforzare glielo credo che gli fa male le ferite, no, non ha già compreso. ci vuole un po' di tempo ad immaginarmi. Non è che sia stato un taglio dietro la schiena, quindi devo avere un po' di pazienza, almeno 3-4 mesi, quelli che sono, dopodiché una volta che è a posto può fare quello che vuole, non è che deve portare cantoni o cose del genere, lui quel lavoro se lo deve dimenticare ormai. Se riesce a trovare qualche lavoro farà, si piglierà un cespugliatore e andrà a tagliare erba per il comune. L'unica cosa che con i numeri dei cespugliatori rimangono dei giri, non come quelli di una volta, erano pesanti che se ne scendeva la mazza. L'importante è che riesci a guidare la macchina, prima ti veniva ben male, immediatamente ci facciamo male le gambe, cose del genere, devi stare, devi riposarti, ma almeno adesso qualcosa la puoi fare in più. Avanti, Antonio. Capo, dopo poi quando uno sta un pochettino bene, rimbiazzi, si è abituato, rimbiazzi a fare cose, è più forte di lui, se uno è abituato a fare cosa, è più forte di lui. Io piano piano già guarisci, almeno sei a posto e te ne vai anche in giro, te ne vai. Altro che stare dentro casa, ci viene a casa. Io sono già stufo di stare qui in casa, figurati. Forse ci vuoi prima, c'era quando sono venuto qui, sto uscendo poche volte, invece quando ero al centro storico sempre mattina essere sempre in giro, vedo. Andavo lì a, come si chiama, uscivo con un amico che faceva riparazioni per noi, c'aveva una ventina di appartamenti, quindi il lavoretto mi usciva, o aggiustare qualche antenna, installarle, cose del genere, con quello conoscevo un sacco di ragazze, capito? E mi divertivo. Non c'è niente qua, sì, sono in una zona bella, quello che è, però non c'è il coso che c'era prima, cioè quando abitavo al centro storico. Vabbè, adesso è diventato peggio, il centro storico è diventato un troiaio anche lì. Più che nigeriani non ci sono, che saltuffano. Marconi potrebbe andare, è tutta roba loro quella, ma il centro storico. Avanti a tu. Purtroppo qua è diventato un casino. Ancora qualcosa però già c'è, dai. Non è necessario, è una bella differenza, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, cosa che abbiamo presente, però poi non c'è, non è roba la cosa. Però ripeto, molte volte può dire manco quello di riuscire, però è roba. Che sono solo che sono, non ho visto di più, sono gli altri. Sono tutti, sono a paranoia, è così. Io ho visto poi da che abito io, ma tutti i cosa che faccio, non si trasmette, non ho così. Ok, se ancora pensate per trovare gli altri, dice, ah, non ho potere, allora, dovrei entrare a lavoro, 3.4, e dico va bene, per questo ho fatto per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, trovare quello che c'è, c'è tutto quello che fa per te, lei no, certo, ma da dove si fa, è proprio quello che si fa. E se non è che ci ha collegato per tutto, si è collegato già, non è che non si è collegato. C'è sempre il pensiero, capito, perché Simone non è che stia molto bene, quindi l'unica uscita che faccio da qui al supermercato poi torno di nuovo indietro, capito? Non è che mi facevo come facevo prima la passeggiata da qua, andavo giù al circolo che c'è giù in Galerante, bevevo una birra con gli amici, facevo una giocata con le carte e passavo l'ora, per dire, diventavo verso le 8 di sera e la mattina entravo verso le 1:30, una cosa del genere. Adesso invece sono qua, hai capito? Intanto tutto quanto si è fatto, quindi io vi va. L'unica cosa, se ho bevuto qualche cosa, vado al supermercato, me la compro, me la metto da parte e me la gestisco, capito? Me la bevo qua a casa, o a pranzo, a cena. Però tendo sempre a ingrassare perché non mi sto più muovendo, capito? Invece prima camminavo, scendevo a piedi, e da qua figura, scendevo a piedi fino a giù alla Gol di Torino, poi salivo pure addirittura, ma mi divertivo, stavo bene, facevo la mia passeggiata, passavo l'ora e boh. Ma invece sono bloccato, purtroppo. Finché non migliora adesso, speriamo che adesso deve fare il vaccino, deve fare, e c'ha paura, capito, di fare quel vaccino, purtroppo, con quello che ha avuto, con questo cazzo di vaccino, secondo che vaccino gli fanno adesso, se fa lo bagno di pigliarsi un'altra di quello ci rimane secca. Comunque il vaccino non fa nulla, perché l'ha fatto già diverse, l'ha fatto anche Sara, l'ha fatto la mia compagna, no, non è successo niente, no. E grazie a Dio, io no, che mi fa vegetare, con un pochettino di dolore al braccio e basta, tutto lì. E non sai cos'è, anche se prendo un'aspirina devo fumare, c'è quello che magari è un po' impredisposto e via. Ho fatto il mio principale e grazie a Dio in Kiwi. Ho fatto il figlio del mio principale ed è lì. Io non ancora, non ha giovato, ma non penso che sia una cosa così nociva. Ma le porte politiche, ma le porte passatore, non è molto passante, non è molto su destra, su voi Italia, e io devo chiedere subito, se non avete la schiena di tutto. Appunto. Ma qual è il tuo cosa la pensi, Fabio? Cazzo, politici, ma quello che è morto, quello già è vero. Ma con cacciatore, anzi sono diventati positivi quelli, qualcuno, in tempo di una settimana è sparito tutto. Basta avere i soldi, a forza di fare il vaccino ti fanno quel, come si dice, usano il sangue, capito? Usano il sangue pulito, ed è molto meglio del vaccino. E guarisci perfetto, invece quando ti fai il vaccino e magari ti pigli il Covid, ti rimane sempre, c'hai sempre problemi, capito? Ti rimangono sempre problemi. Addirittura c'era uno che si è fatto, che si aveva fatto tutti e due i vaccini, adesso sei positivo, figurati tu. È diventato positivo adesso, dopo che ha fatto i vaccini. Quindi secondo me quel vaccino non servono a niente ancora. A proprio avere il vaccino vero e proprio come si deve, proprio sicuro sicuro ci passeranno altri 3-4 anni, che c'è poco ma sicuro. Sì, c'abbiamo anche la viaria attorno a me, già lo sai, in Germania c'è me, in Germania e in Inghilterra, tutti i polli, visti di quei polli che, poveracci, li trattano come il coso, li trattano, li gonfiano, immaginati quando comincia a essere appena grandi, si cappottano e muoiono di là all'interno, hai capito? Tutto pieno di antibiotici sono questi cavoli di polli. Poi lì in Cina hanno fatto tutta una via piena di palazzine, altre 4-5 piani, tutti pieni di polli, hai capito? Mangiano più polli di noi quelli, e sono i maiali, quindi la globalizzazione ha rovinato tutto, tanto per fare soldi, hai capito? Veloci, veloci, veloci, diceva quello. Vediamo ancora cosa succede con questo vaccino. Beh, e cosa vuoi fare? Ma per carità, se vedo che va ancora bene, lo farò dopo che ti dica. Cazzo, diavolo, non è possibile, no? Oh, i poveracci chissi, mamma mia! Ma che apro tutto che ci abbia in culo, ma che non è abile fare bagliacce, che ora siamo già commettendo la picciatura da ricero. Ah, a me ancora non mi hanno chiamato a fare il vaccino. Tesoro non mi ha chiamato. Mi ha fatto fare solo il tampone e basta, cazzo. Mi apporteva poco male via. Quando mi è entrato questa cosa nel naso, che avevi zitto questo qua. E gli ho detto, ma quando l'ho visto questo coso qui, lungo, gli ho detto, ma lo vuole mettere tutto quanto detto del naso questa cosa. E dice, me l'è fatto vuole. Mi è arrivato in fondo un dolore, cazzo. E là lacrime me ne sono scese. E gli ho detto molto ci vuole a vedere se sono positivo o negativo. No, dice aspetti 5 minuti. Ha controllato tutto apposta, mi ha detto no, non c'ha niente, può anche andare a casa. A livello della giocata, ha detto piglia di culo, da un po', e addirittura in Cina adesso stanno a posto di metterlo nel naso, stanno mettendo in culo, cazzo. Ma che mamma di se lo zaccano in culo c'è cosa? No, veramente. Vabbè, magari non va a essere fatto così. Oh, ma c'è vero, in Cina a tre italiani li hanno fatto e sono andati a lavorare in Cina, come sono arrivati dentro l'albergo li hanno preso i cinesi, dice venga aprite con noi e noi stiamo portando l'albergo, gli ha detto vi facciamo il tampone e loro pensavano al naso, no, dice no, il tampone è anale, cazzo di avvalato, ormai di avvalato. E quanto abbiamo stato in quarantena? Dice 20 giorni ha detto, dice se vi volete, a parte dice vi mettiamo il braccialetto, quello elettronico per sapere se nel caso ve ne andate in giro, gli ha detto, come tipo prigionieri, capito? Finché non finivano la quarantena non si potevano muovere dentro l'albergo, se non dove stavano, capito? Immaginati che in Cina, proprio esauriti sono, mica. Già l'ho visto come filmato oggi. Lì come ha visto l'Inter, tutti in vola, senza mascherina, tutti con le bottiglie in mano, bottiglie di birra, bottiglie di whisky, tutto va via. A posto di comprare il supermercato. Maga, Fedez. Ma Fedez dovrebbe invece sta a pensare al limite parlare, visto che è la festa dei lavoratori, parlare del lavoro che siamo in mezzo alla messa. Quello lo va a fare, delle cose che non interessano, lui ha strabbarsi la bocca e buffo. Capa. E lui si è giocato, mi sa che si è giocato qualcosa, perché se doveva far lavorare poi no, non travagli più. Ma appunto per quello vai, fate i batti noi, canta, fa divertire il pubblico se ci riesci e fatti i fatti tuoi, raga, figli che ci gozi, che non sono di tua competenza. Cioè questi cantanti prima erano cantanti e pensavano a quello, a far divertire la gente, la prima, ma c'è pure Eddie, sono in mezzo alla politica, ma attenzione però che si può giocare anche un brutto scherzo con queste cazzate. Io non credo che si cazzare più in politica, sì. E commentare sindacato adesso, che cazzo si ritira un sacco di soldi per la gente, il problema è che il sindacato se sbagli ti rampa in vola subito. in politica un cazzo di altro gliela porto avanti qualcuno, ormai sono dentro e ce l'abbiamo messo dentro noi, non escono più, capito? Si fa la legge per i fatti loro, cioè a Formiguri adesso gli hanno dato dopo la pensione, prima gli hanno tolta, adesso gli hanno ridata, quindi vedrai che più di uno farà le cose e tutte avranno nuovo la pensione, ci avranno. Io stiamo andando bene già in Italia. Ma quello che guardare questo senso di politica di merda, governo che si finisce di qualche lavorare, no, per i coglioni. Allora da poco c'è un po' questo borgoato, ho visto tutti i giorni dopo che io ho giocato con altro gente di ha giocato di coglioni e hanno bloccato le schede grosse di finanza, dopo tanto il consiglio regolare falliti. Perché non lo dovrò pagare, se ne mangi, quello ha pagato il servizio da Fortunato, ha visto che non voglio essere, il proprio assistia, ma si è accertato. Sì, pensavo che fossero qualche vice truccate, capite? Quindi ha bloccato la vincita. Poi invece sono accorti che hanno dato i vinci originali a posto, e meno male li hanno dati. Immediatamente la finanza a rompere le palle, capito? Meno male, adesso l'unica cosa che il colore deve stare molto attento ai parenti. Adesso ce l'ha da tutti i giorni sotto casa, amici, parenti, a rompergli le palle. No, no, io già se li mando tutti i cazzi, no, fa culo se li mando. Ciao, mi faccio una bella casa vincendo tutte le cose che voglio io e poi mi farò qualcosa che piace a me. Ti raggiungo anche una cosa, sono tentato di fare, cioè un bel locale, ma quel contraffalle di tutto di più, a Fadina davvero me, appena che si riapre tutto. Però adesso mi accontenterei di prima di tutto di farmi la casa, poi aspetto un po'. Tanti, Antone. Ehi, c'è, ti sta posando qua. Beato, adesso ti do anch'io. No, io devo andare. Devo accompagnare Gian Piero, mi ha messo un coso al bar. Mi ha detto che noi altri ci mi accompagna, Antonio dice così ci beviamo una cosa, mi ha detto. Mi ha detto va bene, ti accompagna me lo esci. Dopo stare sempre, ha detto che chiuso sto palletto, lo porto in carrozzino, lo porto fino allo spin e poi ce lo risalgo. In alzata. Vediamo che non pesi troppo se no metto un gancio, l'aggancio al tram. Guarda che lo puoi caricare entrambi, c'è la pedana, c'è, non so perché io facevo la mia suocera, la devi tirare, metti la carrozzina dentro e poi la richiudi, l'ha mai fatto? No. E lo spiaggio vicino, sono 100 metri da linea d'aria. Preferisco camminare, a me non è. Immediatamente mi viene il dolore al muscolo. Perché non sono più abituato a fare nulla. Prima invece usavo, per dire, moto piccolo, martello, facevo i fori, eccetera, cazzo. Ho voglia di muovere male con le buche, queste diavolo di buste entrano. Oh, capo. Piano piano ci devi rimettere a camminare, comunque c'hanno la pedana loro per gli invalidi, capito Antone? Cioè come entri in quella centrale, bisogna toglierla, fare qua, filo qua, metti la carrozzella sopra e poi la torna a ripiegare. Ce l'hanno. Già l'ho vista la pedale, c'è la maniglia, basta sollevare, tirare verso fuori e già esce.